Dimmi dove ti fa male, se quello che ho fatto ti ha fatto male. Dimmi quando ti fa male, se quello che ho fatto lo fa passare. Il senso di colpa un po' mi assale.